chi è l'uomo perverso? Non sono certamente io e neppure tu. E, sempre l'altro, il dizionario definisce uomo perverso colui che intimamente e ostinatamente è incline a fare il male, provandone un perfido compiacimento, oppure colui che è mosso o improntato dalla volontà di operare il male. Il perverso è dunque un uomo cattivo, pessimo, perfido e malvagio. Dobbiamo essere riconoscenti a Dio che questi uomini non costituiscono la maggioranza delle persone, ma purtroppo uomini o donne che sono inclini a compiere il male ce ne sono. Eppure vi sono persone che rifiutano che vi siano delle persone che di loro spontanea volontà desiderano compiere il male. Per loro le persone sono fondamentalmente buone, perciò devono solo esprimere ciò che in loro vi è di onesto e buono. Su questo principio alcune religioni portano avanti il loro cavallo di battaglia, dichiarando ai quattro venti che fondamentalmente l'uomo è una divinità che deve solo ritrovare la strada giusta. In definitiva, alcuni credono che nell'uomo non vi sia disonestà, ma solo ignoranza. Ho presente in modo particolare una persona che fin da bambino ascolta l'Evangelo e ha apertamente confessato di non accettare Gesù Cristo quale Dio e che vi sia una verità assoluta. Nelle varie conversazioni questa persona si ritiene onesta e retta, crede di essere onesto intellettualmente e non ammette che vi siano persone perverse da rifiutare in modo disonesto l'Evangelo. Apparentemente questo atteggiamento potrebbe scaturire da carità cristiana, ma il vero motivo per il quale quest'uomo ritiene tutte oneste le persone è per coprire la sua stessa disonestà. Se egli ammette che tutti gli uomini siano onesti, neppure lui può essere disonesto. Se invece ammette che alcune persone possono essere disoneste nei confronti della verità, allora vi è la probabilità che lui possa essere disonesto intellettualmente e, peggio ancora, disonesto di cuore. Ho fatto presente a questa persona che Gesù ha chiamato razza di vipere delle persone per bene come alcuni religiosi, e che delle persone saranno condannate alla perdizione eterna per la loro disonestà. Ma anche di fronte a questa verità egli continua a ritenere che in questo mondo non vi siano persone perverse. Il desiderio di non sentirsi colpevole è così forte da portarlo a negare la realtà. Va a chiudere gli occhi ed affermare che il sole non esiste. Non porta nessun giovamento. Le persone perverse purtroppo ci sono e la cosa saggia è prenderne visione e trarne un insegnamento. La parola di Dio parla molto dell'uomo perverso e ne traccia il comportamento. PR 16 e 28. L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. Con il suo comportamento, l'uomo perverso distrugge tutto ciò che unisce e porta alla concordia. L'affermazione semina contese è da sottolineare. La parola di Dio non afferma che il perverso alimenta le contese, ma semina contese. Stando all'immagine del seminatore che semina il grano e poi torna alle faccende della vita, il perverso è colui che getta il seme della discordia, della divisione e poi se ne va. In seguito, quando vi saranno delle contese o delle divisioni, molto probabilmente lui non sarà presente. Ricordo ancora una coppia di sposi, lei una bella donna e lui un uomo con una gelosia infantile. Lo sposo aveva un amico che continuamente gli insinuava il dubbio circa la fedeltà della moglie, fino al giorno nel quale la sposa, per ragioni di lavoro, si era recata a pranzo con una persona importante. Il marito, già pressato dal dubbio suscitato dal suo amico, dopo una furiosa lite di gelosia, chiese il divorzio. Inutili furono le ragioni della sposa e le sue assicurazioni in merito alla sua fedeltà. Questo insegna quanto il tarlo del dubbio sia fatale, e che, per essere perversi, non sempre occorre compiere cose ripugnanti. Si pensa che parlare negativamente di una persona non sia poi così grave, ma la lingua può fare tante vittime quanto una guerra, e a volte ancora di più. Non a caso in questo proverbio il perverso è affiancato al maldicente, perché il loro comportamento e i risultati derivanti sono simili. Ambedue dividono sia che si tratti di amici, di sposi, di una comunità. Forse quello che turba di più non sono tanto i risultati, ma le motivazioni del perverso. L'uomo perverso è colui che non solo è incline a compiere il male, ma ne prova un perfido compiacimento. Troviamo questo atteggiamento non solo nei cartoni animati dove il cattivo è cattivo per il gusto di fare il male e di dividere, ma purtroppo anche nella realtà. Ho presente una persona che parla sempre al negativo, che riesce a trovare motivi di divisioni nei luoghi insoliti e sembra soddisfatta quando non vi è armonia. È forse imprudente sostenere che trovi un perfido compiacimento nelle divisioni perché solo Dio conosce a fondo i cuori, ma è certo che si trovi a suo agio dove manchi l'armonia. E se non possiamo dire che questa persona sia perfida, almeno si comporta come tale. Che atteggiamento occorre tenere nei confronti del perverso? Una risposta possiamo trarla da come si comporta Dio nei confronti di un tal uomo. Tu ti mostri leale verso chi è leale, integro verso l'uomo integro. Ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto con il perverso. 2 Sa 22:26-27. Il Dio dei cristiani è un Dio che rispetta le caratteristiche dell'uomo. Ma non è vero che, essendo amore, perdoni sempre, intendendo con questo che lascia correre. L'atteggiamento del Dio Trino verso l'uomo è sempre un atto di amore, e a volte sempre per amore, egli cambia atteggiamento. Infatti, se con il leale Dio è leale, se con l'uomo integro Dio è integro, se con il puro Dio è puro, con il perverso Dio si comporta da astuto. L'astuto per noi è colui che riesce a raggiungere i propri intenti, anche se non sono buoni, ma riferito a Dio questa parola acquista il significato di accorto, avveduto. Dio non si lascia imbrigliare dalla malvagità degli uomini. Quando Gesù era interrogato dai farisei che volevano metterlo alla prova o tentarlo, egli aveva sempre una risposta che li metteva in crisi. Il perverso cercherà Dio e non lo troverà proprio perché Dio si nasconderà e non si farà trovare. E la ragione è molto semplice. PR 3:32. Poiché l'Eterno detesta l'uomo perverso, ma la sua amicizia è per gli uomini retti. L'Eterno non sopporta l'uomo perverso. Il perverso non può conoscere i pensieri di Dio, perché sono dati solo ai suoi amici. GV 15:15. È veramente una grande disgrazia non essere amici di Dio. In effetti, le conseguenze dell'atteggiamento del perverso non sono delle più rosee. GB 31:3. La sventura non è forse per il perverso, e le sciagure per quelli che fanno il male? PR 22:5. Spine e lacci sono sulla via del perverso. Chi ha cura della sua vita se ne tiene lontano. È inutile piangere quando si portano le conseguenze del proprio operato. Dobbiamo esaminare le nostre vie. Anche il credente che agisce da perverso ha le sue stesse conseguenze. Come è scritto, è meglio avere una vita sobria che ricca e peccaminosa. PR 28. Sei meglio il povero che cammina nella sua integrità che il perverso che cammina nella doppiezza. Ed è ricco. Nella vita si possono ottenere beni e ricchezze in modo non lecito. Vi sono cristiani che si interrogano se possono svolgere un mestiere o no. Per Dio ogni lavoro è giusto, purché sia onesto. E meglio essere poveri e giusti che essere ricchi e perversi. PR 28:18. Chi cammina da integro sarà salvato, ma il perverso che percorre vie tortuose cadrà all'improvviso. Per aver amato il denaro e il benessere, alcuni credenti hanno perso la fede, hanno diviso la famiglia, si sono separati dai fratelli, hanno amato il mondo. Se la parola di Dio parla del perverso è perché ci vuole insegnare una lezione. Se il perverso semina contese, se è nemico di Dio, se porta delle conseguenze negative nella sua vita, conviene imitare la preghiera e proporsi l'obiettivo del salmista, Salmo 101. Io canterò della tua benignità e giustizia, canterò le tue lodi, o Eterno, avrò cura di condurre una vita integra. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Io detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Il cuore perverso si allontanerà da me. Non voglio saperne del male. I miei occhi saranno sui fedeli del paese e li terrò vicino a me. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi proferisce menzogne non reggerà davanti ai miei occhi. Questa preghiera non scaturisce solo da un uomo giusto, ma da un uomo che ama anche la giustizia. Chi ama la giustizia perché Dio è giusto, chi ama la santità perché Dio è santo, chi odia il peccato perché Dio lo odia, chi ama i figli di Dio che sono integri perché Dio è integro, ha un cuore simile, a quello di Dio. E questo è un dono inestimabile in una società sempre più corrotta e perversa. Per natura abbiamo ereditato un cuore malvagio, un cuore corrotto e perverso, ma con un atto di volontà, per amore di Dio e di Cristo suo Figlio, dobbiamo rigettare, rifiutare e allontanare da noi il cuore perverso. Il pericolo che ci insidia è sempre quello di dimenticare che, se da parte nostra non possiamo fare quello che fa Dio, da parte sua Dio non farà quello che spetta a noi. Perciò è inutile nascondersi e giustificarsi nel dire che non si è ricevuta la chiamata a vivere per Dio, perché la chiamata a consacrare la vita a Cristo è per tutti meno, dato che Cristo è morto per tutti i perduti meno. Mentre a noi spetta quell'atto di volontà di abbandonare tutto ciò che è perverso agli occhi di Dio, per dedicare il tempo che ci resta a glorificare il nostro Creatore. Il salmista si è proposto di condurre una vita integra, di non occuparsi di cose malvagie, di non lasciarsi influenzare dal male, e si è proposto di stare con i figli di Dio che erano integri. Solo così è possibile evitare di essere perversi. Il salmista aveva delle precise e giuste mete, dato che chi non ha mete non va da nessuna parte. O meglio, chi non ha mete va ovunque, ma la sua esistenza è un girovagare piuttosto che un camminare. E non vi è nulla di più brutto che vivere senza meta. Gennaio 2007, Ellero.